e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Allora, ti hanno festeggiato un giorno prima. Sì, esatto. In realtà avrebbero dovuto festeggiare i due gemelli. Questo i gemelli, è il mese dei gemelli, ecco, e quindi di quando... George. Ma no, che bravi per averli fatti nascere. Due gemelli dei gemelli. Esatto, qua un macello in quella casa praticamente. Ho letto che il suo portavoce, ufficio stampa, sì, il suo addetto ha detto, sì, adesso George è sedato ma si riprenderà. Datemi una calmata. Perché partoriscono loro, certo, capisci? Con tutti i dolori annessi e connessi. Proprio una grande esperienza, ben due. Vabbè, congratulazioni per il lieto evento, la famiglia Clooney naturalmente, peraltro hanno scelto il mese migliore perché le persone dei gemelli nate a giugno sono speciali. Ah, guarda, non posso che condividere questa tua affermazione. Non posso credere che Carmelo non sia dei gemelli, pazienza, dai, però teniamo ugualmente, lo vogliamo bene lo stesso. Ottimo, però non ne parleremo né di compleanni né di gemelli né di altri segni zodiacali questa mattina, e neanche dei figli di George Clooney e da male, perché parleremo invece di fisco. Attenzione, perché dall'Agenzia delle Entrate stanno arrivando nuovi alert per qualcuno che non è in regola con le dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni. E poi parleremo, per quello che riguarda sempre i denari, il solito biglietto da visita, della cancellazione delle tariffe roaming dal 15 giugno. C'è questo azzeramento, ma è un azzeramento totale, davvero non ci costerà praticamente più nulla chiamare quando saremo all'estero, in Italia o in altre zone. Intanto, per questi due argomenti, se volete intervenire all'800240024 potete già prenotare i vostri interventi, ma lo potete fare anche per gli argomenti di cuore, ovviamente. Direi di sì, magari 800240024, un numero che potete comporre se volete parlare con noi di sonno, russamento. Ci sono delle novità anche per individuare, per fare diagnosi di apnee, non sono proprio prontissime ma stanno per. E poi parleremo di sbiancamento, e quindi ci siederemo sulla poltrona del dentista. E ancora la salute viene parlando. Noi infatti parliamo sia di salute che di educazione finanziaria. Parleremo con il nostro esperto del mese, il professor Costanzo, aprendo un po' la nostra posta, che non è la posta del cuore ma è la posta della pelle. Via, via. Mi è venuto con la B, via, ho detto. Via ai mercati. Allora, abbiamo un rialzo generalizzato, questo è non tanto generalizzato, perché è bello sostenuto a Milano che guadagna lo 0,51%, mentre abbiamo un quadro contrastato fra le altre piazze europee: Parigi più 0,30%, Francoforte meno 0,12%, Londra più 0,13%. Investitori un po' alla finestra, cauti, in attesa di quello che è stato ribattezzato, arriverà domani, il Super Thursday, il Super Giovedì, con tre appuntamenti importanti non solo per i mercati finanziari ma anche per le vicende politiche internazionali. Ci sono le elezioni britanniche, c'è l'audizione al Senato americano dell'ex numero uno dell'FBI e poi abbiamo la riunione della Banca Centrale Europea. Allora, proprio in virtù di questo, ma non solo, siccome domani io e Nicoletta facciamo un'altra simpatica trasferta, la radio per il mio compleanno mi manda a Torino al Salone dell'Auto, abbiamo traslato a venerdì la puntata della settimana di Investire Informati, per cui tutto quello che succederà domani noi in maniera molto fresca e attuale la potremo addirittura commentare appunto venerdì. Per cui questa è la prima informazione di servizio che ci faceva piacere condividere con voi. Per quello che riguarda Piazza Affari, oggi tutti i titoli in rialzo riguardano gran parte del settore bancario: BPR Banca più 2,82, UBI Banca più 2,27, Unicredit più 2,21%. C'è il salvataggio in Spagna del Banco Popular, che viene comprato per ben un euro dal Banco Santander, quindi un salvataggio che evita un bail-in che sarebbe stato sistemico, sarebbe stato veramente molto importante e con effetti super negativi su tutta l'economia europea, per cui abbiamo appunto questa sorta di salvataggio. L'euro è forte a 1,1257 sul dollaro. Per i mercati direi che è tutto. E dopo aver dato un'occhiata ai mercati, nella nostra rassegna stampa di denari oggi vi diamo anche, come vi anticipavo poco fa, qualche aggiornamento sul fronte del fisco. Ci sono molte notizie che arrivano dall'Agenzia delle Entrate. Intanto ci sono i nuovi alert che invitano un bel po' di contribuenti a correggere errori ed omissioni, ma non solo, c'è anche la conferma del cambio al vertice delle entrate, perché salutiamo Rossella Orlandi e arriva Ernesto Maria Ruffini. Non sono qui da noi, noi invece salutiamo Giovanni Parente del Sole 24 Ore. Benvenuto Giovanni, ciao. Buongiorno, buongiorno, grazie. Allora, intanto magari sì, 30 secondi, facciamo un bigliettino da visita di Ernesto Maria Ruffini, il nuovo direttore dell'Agenzia delle Entrate, così le facciamo conoscere ai nostri ascoltatori, e voi ne scrivete molto stamattina sul Sole insieme a Marco Mobili. Giovanni, chi è? Allora, Ernesto Maria Ruffini, avvocato tributarista, negli ultimi 2 anni ha ricoperto l'incarico di amministratore delegato e di presidente di Equitalia, da aprile anche commissario straordinario, perché come sapete tutti Equitalia chiude i battenti dal 1 luglio per entrare all'interno dell'Agenzia delle Entrate, quindi la procedura di nomina che è stata avviata ieri dal Consiglio dei Ministri di direttore dell'Agenzia delle Entrate di fatto lo renderà il nuovo capo di questa agenzia che, come abbiamo scritto oggi, gestirà un po' tutta la filiera del fisco italiano. Giovanni, scusami, solo una cosa, non so come sei collegato telefonicamente o avvicini sì. Un pochino la bocca alla cornetta, sì, ecco, eccomi. Ti ringrazio eccomi, perché... Mi sentite meglio? Adesso meglio. Gestirà tutta la filiera del fisco italiano, vi dicevo, quindi dai servizi ai contribuenti, che è quello un po' che riguarda la dichiarazione dei redditi, di cui parleremo anche dopo, ai controlli, alla riscossione, che è quell'attività che adesso viene svolta, viene appunto svolta da Equitalia e poi sarà di nuovo svolta dall'Agenzia delle Entrate. Benissimo. Quindi sarà una super macchina del fisco praticamente. Ecco. Senti, saranno firmati da lui questi 200.000 alert in arrivo che stanno arrivando dall'Agenzia Guarda. Delle Entrate? Deborah, credo che queste siano forse una sorta di ultimo atto della gestione Orlandi, okay. Perché la campagna di pianificazione era stata prevista già a metà maggio, e quindi insomma negli ultimi giorni si sono definiti soltanto i numeri. Come dicevi giustamente tu, sono 100.000 per quanto riguarda quelle che vengono chiamate comunicazioni multireddito, quindi sono 7 tipologie di anomalie diverse, a cui si è aggiunto ieri il numero definitivo anche delle comunicazioni relative agli studi di settore, saranno circa 147.000, quindi saranno circa 247.000 complessivamente queste lettere che verranno fatte partire per questa tranche certo. Di invii di comunicazione anomalia. Allora, cosa devono sapere i contribuenti relativamente a questa operazione? Chi rischia, ma anche se non dovete aver paura, perché in realtà è una richiesta di accertamento e di chiarimento, non viene prevista al momento nessuna tipologia di sanzione, ma sono 7, se non ho capito male, Giovanni, le tipologie di reddito che vengono messe sotto osservazione, per le quali vengono chiesti dei chiarimenti ai contribuenti che non hanno fatto una dichiarazione dei redditi regolare al 100%. Insomma, a chi tocca questo avviso? Assolutamente, Deborah. Allora, ci sono tipologie di redditi molto popolari, ad esempio come i redditi per chi ha un appartamento in locazione con il meccanismo della cedolare secca, ma ci sono anche i redditi da lavoro dipendente, inclusi quindi gli assegni corrisposti all'ex, poi ci sono i redditi da capitale, quelli di lavoro autonomo e poi ci sono anche i redditi d'impresa. Quindi insomma sono tipologie molto vaste perché proprio colgono diverse anomalie per quanto riguarda il comportamento fiscale. Come dicevi giustamente tu, non stiamo parlando di una fase accertativa. Ma di avvisi bonari, possiamo chiamarli così. Bravissima, bravissima. Perché in questo momento di fatto il fisco ti avvisa. Dice guarda, a noi risultano delle anomalie, cioè dei redditi che non hai dichiarato oppure hai dichiarato in misura ridotta rispetto a quello che noi ci aspetteremmo. Che fai? Ti vuoi mettere in regola? Quindi in questo momento sfruttando l'opportunità di quello che si chiama ravvedimento operoso e quindi pagando un importo di sanzioni e di interessi che in questo momento sarebbe ridotto rispetto a se il fisco più avanti facesse un vero e proprio avviso di accertamento con il quale poi verrebbero contestati importi maggiori. Certo. Quindi il contribuente ha la possibilità attraverso queste lettere e collegandosi al suo cassetto fiscale, ricordiamo che l'accesso servono le password di fisco online oppure è necessario passare attraverso un CAF o un professionista che consente appunto di accedere via Entratel, nel cassetto fiscale sono riportate tutte le indicazioni e addirittura, novità di quest'ultima tornata, c'è la possibilità anche di collegarsi con un link che di fatto ti rimanda direttamente a quella che dovrebbe essere la dichiarazione integrativa. Con i valori corretti che secondo l'amministrazione finanziaria, e da lì si può scaricare il modello di delega, quello che tecnicamente si chiama F24, che i contribuenti avranno imparato a conoscere perché è ormai il meccanismo più diffuso per il pagamento anche dell'IMU e della TASI ad esempio, e che consente appunto di versare il dovuto e quindi di se ovviamente è stato messo un reddito o è stato dichiarato in maniera ridotta rispetto a quello che era il dovuto, potranno versare quanto dovuto e chiuderla lì in certo. Questo modo la partita con l'agenzia. Grazie, grazie a Giovanni Parente per essere stato con noi. Dunque attenzione a queste lettere di avviso bonario che sono in arrivo da parte dell'Agenzia delle Entrate. Naturalmente avete tutte le condizioni per potervi mettere in regola. I nostri auguri anche al dottor Ruffini, la nuova guida del fisco italiano. Intanto noi andiamo velocemente a sentire il traffico, poi parliamo di sonno. A tra poco. Faircam Logistics, gli specialisti per la tua supply chain. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta... Cuore e denari. Allora, ritorniamo insieme con questo concertino che a molti sarà familiare. Ai nostri ascoltatori. Se siete vittima di un russatore, noi siamo qua, 800 24 00 24. Raccontateci qual è il rumore che interrompe il vostro sonno, che vi impedisce di dormire. Ha qualcosa di animalesco? Assomiglia più a un treno, a una motosega? Sbizzarritevi, raccontatecelo e diteci soprattutto se abbandonate il campo, vi trasferite sul divano oppure cercate con le buone o con le cattive di farlo smettere, perché a volte succede proprio così. Cambia posizione e meravigliosamente torna al silenzio. Ma per noi è tornato a trovarci il dottor Lino Nobili, responsabile del Centro di Medicina del Sonno all'Ospedale Niguarda di Milano. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dottor Nobili, belli o brutti a partire da una certa età russano tutti? Facciamocene una ragione, soprattutto se il nostro compagno o la nostra compagna russano, non prendiamola come uno sgarbo, come qualcosa di personale. Dottor Nobili, facciamo un po' pace con i russatori. Beh, certo, è assolutamente una cosa involontaria, purtroppo. E andando avanti, come dice bene, si riduce un po' il tono dei muscoli, compreso anche quello delle vie respiratorie. Questo succede con l'età. Se c'è qualche chilo in più, ecco che la respirazione può diventare più faticosa nel sonno per via dell'atonia che abbiamo, e compare il russamento. Il problema è che poi il russamento qualche volta può accentuarsi ulteriormente, questa occlusione diventa la vera e propria apnea, apnea del sonno, e qui cominciano disturbi non solo per quello che dorme a fianco, che è disturbato dal rumore, ma il paziente che proprio ne soffre. Infatti lei, come esperto di medicina del sonno, si occupa di russamento, ma in modo particolare di apnee notturne. Noi ne abbiamo parlato tante volte insieme a lei per imparare a riconoscerle, quindi riferire questa cosa al nostro medico. E io ho capito che in pratica, se il nostro compagno e la nostra compagna, mentre russano, fanno improvvisamente delle pause in cui trattengono il respiro e poi ricominciano, invece che rallegrarci, dottor Nobili, dovremmo attivarci e invitare il nostro compagno a fare due chiacchiere con il medico, proprio come stiamo facendo noi, perché chi va in apnea durante il sonno rischia di avere dei problemi seri al cuore, al cervello, anche la pressione ci rimette, perché tende ad alzarsi. Quindi l'importante è arrivare ad una diagnosi, prenderne consapevolezza. E dottor Nobili, noi l'abbiamo chiamata perché abbiamo letto che sembra che possa così arrivare presto un cerotto capace di individuare chi soffre di apnee notturne e soprattutto anche di intercettare il grado di pericolosità. Non è ancora disponibile perché si attende l'approvazione da parte dell'American Food and Drug Administration, ma sarebbe sicuramente interessante, perché è sicuramente un dispositivo più facile da usare e da tollerare. Dottor Nobili, le piace l'idea? Ma guardi, sono un po' di anni che ne hanno fanno di dispositivi. Al momento ancora ne guida, e noi sappiamo che la diagnosi si fa con la polisonografia, che è un esame un pochino più complesso. Questo esamino, diciamo che può essere utile nello screening, perché si applica facilmente, poco assolutamente invasivo, si registra, è un cerotto, chiamiamolo così, che si appoggia sulla fronte e poi c'è un sensore nel naso, quindi riesce a darci informazione sulla saturimetria, sulla presenza di apnea, quindi in qualche modo può essere utile. Il problema qual è di questi strumenti? Che intanto, come non è ancora approvato, quindi è difficile utilizzarlo anche in una struttura ospedaliera, per esempio, però, ma il problema è che più noi riduciamo le informazioni e più questi strumenti devono essere in mano a degli esperti. Cioè non è che in realtà riducendo la quantità di informazioni che abbiamo e facilitando rendiamo più facile la diagnosi. Questi strumenti possono essere molto utili, ma devono essere in mano di persone che conoscono bene cosa ci può stare dietro, altrimenti si rischia anche di fare degli errori importanti. Però ben venga la tecnologia, in futuro spero che ci aiuti nettamente nel miglioramento della diagnosi, perché questo è un disturbo molto frequente e fare polisonografia tutto spiano è molto difficile, quindi se abbiamo degli strumenti attendibili tanto meglio, aspettiamo cosa ne esce fuori. Allora, e noi aspettiamo che cosa ci vuole raccontare Laura da Sondrio all'800240024. Quando c'è il dottor Nobili i centralini non dormono, scoppiano. Dottor Nobili, per lei Laura. Buongiorno Laura, benvenuta a Cuore Denari. Buongiorno. Eccoci qua, Laura, vada. Sì, io chiamo perché mio marito dice che ho delle apnee notturne e che russo forte, specialmente dopo un momento di silenzio assoluto, e non riesce già di suo dormire, dice non ce la faccio più a sopportarti. E il problema è che anche quando vado con le amiche in vacanza così ho un po' questo problema, questa vergogna, anche perché poi disturbo tutti. Voglio sapere se c'è qualche rimedio, qualcosa grazie, che possa grazie fare. Laura, allora anche le amiche di Laura soffriranno sicuramente di, no, soffriranno, no, nel senso russeranno, perché un po' russiamo tutti, chissà, magari russa anche il dottor Nobili, ma non voglio indagare, non ve lo dico, non ve lo certo dico. Allora Laura, beh, c'è anche una sorta di disagio, perché il compagno ti dice non mi lasci dormire, poi si va in giro con le amiche a dire sì, dividiamo la stanza, però attenzione che russo. Un po' di imbarazzo, ma soprattutto il problema è più per la nostra salute, più che per le relazioni. Sì, ma in effetti molto spesso all'inizio è così, cioè il paziente, se non fosse perché qualcun altro si lamenta di lui, non direbbe nulla. Questo è anche un po' la parte negativa della patologia, che se non c'è un testimone può andare avanti per un sacco di tempo e quindi i sintomi magari si manifestano dopo che la malattia ha già lavorato per un po'. Quindi comunque sia, quello che dice la signora merita di essere approfondito facendo al momento l'esame che abbiamo e la polisonografia. Si fa una polisonografia che è comunque un esame che non è invasivo e che di sicuro ci permette di capire se sono apnee sporadiche, perché tutti possiamo fare qualche apnea durante la notte, un conto è se cominciamo a superare un certo numero per ora, allora ci sono dei criteri che ci fanno fare la diagnosi precisa. Allora Titti ci scrive su WhatsApp: mio marito rimane anche 20 secondi in apnea notturna, ma non riesco a convincerlo a farsi controllare. Cosa posso fare? E si dà la risposta da sola: niente. Grazie Titti. Dottor Nobili, non è che possiamo trascinarlo. L'apnea proprio 20 secondi, questa è l'apnea media, i 20 secondi possono durare anche 40. E spesso succede questa cosa, però purtroppo non si può fare niente finché non c'è l'esame strumentale, cioè non è sufficiente, anche perché poi decidere cosa fa, ma specialmente se i pazienti non hanno molti sintomi sono molto restii a pensare che questo possa essere un problema rilevante. Allora, dottor Nobili, qua c'è un caso di Clara da Brescia che ci scrive, molto carina: russo così tanto e così forte che mi sveglio e mi spavento da sola. Come posso fare? Sono all'ottavo mese di gravidanza e riesco a dormire solo supina. Aiutatemi a non divorziare, ci scrive Clara. Potrebbe essere anche questo, anche lo sappiamo, anche la letteratura, potrebbe essere anche legato a questo particolare momento. In più, quando si ha per tutta una serie di questioni che sono da quelle ormonali, che l'aumento di peso, e in più, come dice la signora, la posizione supina non fa altro che accentuare la possibile occlusione delle vie aeree nel sonno, e quindi è la posizione che più favorisce le apnee notturne. Quindi potrebbe essere anche solo temporaneo, nel senso, dopo la nascita del bimbo si perde peso, si può cambiare finalmente posizione, magari il disturbo ritorna a essere assolutamente tollerabile. Però vale la pena, di se dopo la gravidanza persiste, di capire che cosa succede. Allora, un ascoltatore ci scrive che aveva lo stesso problema in famiglia con sua moglie e ha risolto con un cerotto da naso. Dottor Nobili, mettiamo un cerottino, il naso respira meglio, quindi non russiamo? Alcuni russamenti semplici è possibile, perché tra le cause del russamento uno dice cosa c'entra il naso con russare, perché se aumenta in realtà la resistenza dell'aria al passaggio attraverso le narici, fa vibrare di più anche il palato e questo può provocare il russamento. Quindi dilatare un po' le narici, il russamento aiuta, può migliorare. Le apnee molto, ho visto pochissime persone cambiare con un semplice cerottino. Senta, dottor Nobili, qua un ascoltatore dice: polisonografia, io l'ho fatta, e anche se il dottor Nobili dice che non è invasiva, si fa molta fatica a dormire con tutti quei cavi. Beh, può aver ragione, nel senso che abbiamo molti fili che registrano da vari sensori, la respirazione, i movimenti della cassa toracica, il flusso d'aria dal naso, i movimenti delle gambe, insomma un po' di sensori ne abbiamo, ma nel 90% dei casi i pazienti dormono, e anche nel caso in cui quel sonno non sia proprio il sonno quello classico. Buono, va bene, se ci sono le apnee le vediamo, insomma. Allora, noi rimaniamo ancora insieme con il dottor Nobili per le vostre domande subito dopo il GR, intanto GR, poi di nuovo insieme. Il segnale orario vi è offerto da Logica, spazio, tempo, Module Block, l'evoluzione del magazzino. Vuoi conoscere le dinamiche e tutti gli aspetti professionali del mondo della radio? Autore, redattore, conduttore, produzioni audio e declinazioni web e social. Se una di queste è la tua strada, sintonizzati e frequenta il Master Part-Time in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. Un percorso innovativo per fornire strumenti professionali a chi ha iniziato o vuole iniziare a lavorare nel mondo della radio. A tua disposizione i massimi esperti del settore per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it. State ascoltando un programma offerto da Investi con Anima, il gruppo leader del risparmio gestito italiano. Cuore e denari. Buonanotte, buonanotte amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo. Ti ringrazio per avermi stupito. Allora, Valeria non dorme bene come il fiorellino, perché ci scrive: ogni notte mio marito accende il trattore e neanche i miei calci riescono a fermarlo. Però a volte fa delle pause, saranno le apnee. Che durata devono avere per considerarle tali? Valeria lo prende a calci, ma poi si occupa anche un po' della salute del marito. Dottor Nobili, buongiorno e ribuongiorno. Buongiorno. Allora, Valeria, sentendo la nostra trasmissione, ha fatto una sorta di dichiarazione: lo prendo a calci perché sicuramente mi disturba e non riesco a dormire. E poi ci sono tanti ascoltatori che ci raccontano che si stanno separando, uno dorme sul divano, l'altro dorme a letto, e quindi si danno un po' i turni. Però le apnee sono un problema serio, quindi vuole sapere come fare. L'aspetto sociale c'è sicuramente, questa cosa anche della coppia, il russamento disturba anche la vita sicuramente di una coppia, molto frequente. Dare un calcettino vuol dire svegliare leggermente il paziente, e svegliandosi aumenta il tono dei muscoli e quindi riesce magari a non prustare così intensamente, però non è questa la terapia. Allora, se accorge di questo bisogna approfondire, insomma. Chiudere la bocca con un cerotto risolve le apnee? Oppure, ma non mi sembrano rimedi molto scientifici, dottor Nobili, qua ecco, attenzione. Direi di lasciare perdere, di non fare nessuna di queste manovre, ecco. Qualche volta potrebbe anche essere avere un senso, avere un significato, ma non, è meglio che non farlo assolutamente. Però stavo pensando, Nicoletta, che questo significa che veramente per qualcuno la perdita del sonno è una tragedia. C'è qualcuno che non soffre particolarmente per dormire poco, ma qualcuno invece lo patisce veramente tanto. Allora, ma questo succede anche con gli apnoici, ci sono quelli che immediatamente si rendono conto e hanno problemi diurni, e altri che per anni non hanno alcun sintomo. È molto individuale. Dottor Nobili, una domanda su Twitter: quando fare la polisonnografia, che è quell'esame che attraverso tanti, come si chiamano, elettrodi, filini che ci mettono un po' ovunque, dalla testa, un po' su lungo il corpo, alle braccia, insomma diventiamo un po' tutto un filo. Einstein. Dormiamo, ci portiamo dietro tutti questi filini che sono raggruppati in una specie di sensore che sembra sulla pancia, giusto? Sì, ce ne sono di tanti tipi, c'è una piccola scatoletta che registra tutti questi segnali, che qualche spesso viene appoggiata sulla pancia o viene tenuta di fianco, ce ne sono alcuni che si indossano sulla mano, questo nuovo in teoria sarebbe una cosa che si appoggia addirittura sulla testa. Il principio è di registrare contemporaneamente più parametri, l'attività respiratoria, la saturazione di ossigeno, e ci danno un'idea. Questo quando abbiamo un problema di screening per apnea notturna, perché la polisonografia si può fare anche per altri disturbi, da insonnia, gambe senza riposo. Quando farlo? la si fa quando ci sono dei sintomi, quando un partner si rende conto che oltre al russamento ci sono delle pause, quando il paziente magari si alza qualche volta di notte anche per far pipì, che abbiamo visto che è un segno tipico delle apnee notturne, non è legata alla prostata, quindi è legata a un problema che si verifica di alcuni ormoni diuretici che vengono prodotti a chi ha apnea notturna, oppure quando di giorno c'è sonnolenza, lì bisogna assolutamente farlo, però non fidiamoci solo della sonnolenza, perché qualche volta i pazienti hanno la sonnolenza solo dopo molti anni o addirittura non ce l'hanno mai, però se il disturbo è severo durante la notte i rischi cardiovascolari vanno avanti comunque, quindi non appena si hanno segni di apnee notturne riferiti da un testimone facciamo degli approfondimenti. Allora Pier però ci scrive, è vero che esiste un disciplinare ministeriale che prevede che appena uno faccia una richiesta di esami per apnee notturne per sicurezza immediatamente gli viene sospesa la patente? Lui fa l'agente di commercio e non potrebbe permettersi questo rischio. Dottor Nobili. In realtà c'è una nuova normativa adesso a livello europeo ed è stata approvata anche in Italia, che rende la cosa un pochino più strutturata, nel senso quello che sappiamo adesso è che se c'è un sospetto, se un paziente ha delle apnee notturne confermate, associate a sonnolenza, perché il problema non è tanto l'apnea, ma il problema è la sonnolenza aumenta il rischio di incidenti, deve dimostrare che non ha più sonnolenza, quindi che ha fatto un trattamento adeguato per trattare il disturbo, ma in realtà non è corretto togliere la patente perché uno deve fare l'esame. Quello che può succedere è che andando al rinnovo della patente, se il medico competente valuta che il rischio di avere della apnea notturna è molto alto già prima di aver fatto la polisonografia, in quel caso può prendere le precauzioni, ad esempio negli autotrasportatori. Però in realtà se poi si dimostra che il disturbo è trattato correttamente, la legge è fatta non per punire, per regolamentare e anche per poter salvaguardare la salute del paziente e anche di chi gira nelle strade. Quindi non c'è questo pericolo, anzi in realtà penso che le cose siano migliorate. Stefano, buongiorno, ci chiama da Roma, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno a lei, ci racconti. Allora, no, io praticamente sono in regime di pari opportunità con mia moglie. Bravo. Perché chi si addormenta prima dorme. In quanto russiamo tutte e due. È come mangiare l'aglio, bisogna mangiarlo in due, così si russa in due. Io però sono sotto terapia da 4 anni, la CPAP. Sì, porta questa mascherina oggi, notturna. Esatto. Allora, il mio problema è proprio la mascherina, in quanto non riesco ad avere una mascherina che mi faccia dormire comodamente. Perché il sistema sanitario me ne ha passate un paio. Di diversa misura, però non si trova bene. Allora, dottor Nobili, questo ha toccato un punto molto importante, cioè quando si dà una CPAP a un paziente non si mette, si dà una macchinetta di cui usa, bisogna proprio cercare anche quelle mascherine, adesso ce ne sono tantissime, quindi per esempio noi guarda lavoriamo con dei fisioterapisti respiratori proprio per questo motivo, perché sono degli esperti proprio del tipo di maschera, bisogna lavorare su questo aspetto, altrimenti poi il paziente ha a casa la CPAP ma non la usa perché fa fatica semplicemente a usare la mascherina. E al signore gli posso dire che di non demordere, perché ci sono moltissimi tipi di maschera, anche se sono quelli che si chiamano nasal pillow, che possono funzionare molto bene e sono un po' meno invasivi. Bisogna avere la pazienza di provarne tante. Allora, e parlare soprattutto con il medico. Ma certo, io voglio salutare anche il professor Luca Levrini, che ci ha raggiunto, è odontoiatra, docente di ruolo all'Università degli Studi dell'Insubria, autore della Dieta del Sorriso, mangiare bene per la salute della bocca. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno. Allora, anche l'odontoiatra, anche il dentista può dare una mano e infatti ho sentito che ci sono, per le forme lievi e moderate di apnee, di OSAS, ci sono degli apparecchi dentali esteticamente simili al bite che, riposizionando la mandibola, potrebbero essere utili. Dottore? Sì, professore, anzi. Gli odontoiatri hanno un ruolo di cura importante, non tanto di aiuto, perché collocando in bocca questi semplici dispositivi spostano e riposizionano la mandibola spostando contestualmente anche in avanti la lingua e quindi in qualche modo aprendo lo spazio aereo che spesso proprio è sito di ostruzione di apnea. Pensiamo che il 90% dell'apnea è proprio causata dall'appoggio della lingua nella sua parte posteriore. sono dispositivi semplici che piacciono molto, che sono piccoli, che non si vedono, sono trasportabili perché uno la mette nella borsetta e soprattutto funzionano, nel senso che già le raccomandazioni ministeriali in Italia dicono che sono efficaci, quindi suggeribili nel caso di russamento e di OSAS lievi o moderate. Ed è importante quindi, anche alla luce dell'intervento del vostro ascoltatore, capire che nel momento in cui c'è questo tipo di problematica, di patologia, il paziente deve conoscere tutte le alternative terapeutiche e quindi di fatto nel caso del paziente considerare anche l'ipotesi che collocare in bocca un apparecchio possa essere, se non risolutivo nel caso in cui l'apnea è chiaramente grave, sicuramente positivo in qualche modo risolvere la propria problematica. Quindi, dottor Nobili, collaborate anche con gli odontoiatri e non solo, anche con gli otorini. Hanno preso un ruolo estremamente importante. Ormai l'approccio al paziente con l'apnea è chiaramente multidisciplinare. Molti pazienti col BITE questo MAD detto appunto, migliorano tantissimo e addirittura alcuni sono completamente liberi dall'apnea. Quindi assolutamente, quello il problema è anche lì di nuovo, bisogna, questo lo sa bene Leverini che è stato uno dei fondatori di questa cosa, bisogna essere esperti, cioè ci sono degli odontoiatri che hanno delle competenze specifiche, particolari, proprio legate a quello che succede nel sonno, cioè quando si guarda la bocca di una persona, questo succede anche con gli otorini, bisogna essere degli otorini o dei dentisti o odontoiatri che hanno la competenza legata al sonno e questo ormai lo sappiamo e se lavoriamo tutti insieme i risultati sono molto più efficaci. Quindi sedendoci sulla poltrona del dentista, il nostro dentista potrebbe intercettare quindi il nostro problema, professor Leverini. Se io vengo da lei, apro la bocca, lei vede se è russo? Ma no, bisogna chiederlo, per cui gli odontoiatri che sono sensibilizzati a questa problematica devono fare sempre due domande chiave, una è se il paziente è russa e se l'altra se il paziente ha sonnolenza. Nel momento in cui il paziente risponde sì ad una di queste domande, si aprono degli scenari diagnostici, polisonografici o di consulto con l'esperto del sonno che chiaramente devono far chiarezza. Le altre sentinelle diagnostiche che l'odontoiatra può avere, perché sono delle patologie che sono correlate alla apnea notturna ossultiva, che sono il bruxismo, che è il digrignamento notturno. E quindi di fatto nel momento in cui io vedo un paziente che digrigna i denti, chiaramente il sospetto diagnostico verso questa problematica io devo averla. Certo è che gli odontoiatri sono tanti e quindi la sensibilizzazione della categoria alla quale appartengo deve essere importante, una patologia che purtroppo ha nella problematica più grande il fatto che sia misconosciuta, che non sia conosciuta, la gente ha sonnolenza però di fatto attribuisce questa problematica allo stress, al certo. Lavoro, al weekend o al fatto che non ha digerito bene. Esatto. Invece, per questo noi torniamo a parlarne spesso. Intanto io libero il dottor Nobili perché gli abbiamo teso una specie di agguato, abbiamo detto 5 minuti dottor Nobili e poi l'abbiamo incastrato perché sono arrivate tante telefonate. Grazie dottor Nobili. Va bene, grazie a voi. Grazie ancora. Ma professor Leverini, questa, come la chiamiamo, bye? Questo apparecchio per non russare, sì. Qual è il nome esatto che così impariamo? Ce ne sono molti, il dottor Nobili ha detto MAD, cioè dispositivo che avanza la mandibola sostanzialmente, più corretto sarebbe che riposiziona la mandibola, perché la mandibola può essere portata in avanti ma anche spostata in basso, sempre con l'obiettivo di creare più spazio posteriormente dietro alla lingua. Io lo chiamerei dispositivo introrale proprio per essere molto generico, perché il bite in realtà viene confuso con il dispositivo che magari viene utilizzato per il digrignamento, il bruxismo, queste forme di protezione del dente più che di... Ecco, chiamiamolo come bisogna chiamarlo, ma mi spieghi un attimo, deve essere fatto su misura oppure le possiamo trovare un po' dei modelli da adattare? L'ideale è che sia fatto su misura. Come il plantare, insomma, per i piedi. L'ideale è che sia fatto su misura, perché l'efficacia di questo dispositivo passa anche attraverso la collaborazione. Il paziente se lo mette se... l'apparecchio sta bene in bocca, è confortevole ed è fatto su misura. Se inizia ad essere preformato e quindi avere delle caratteristiche che mal si adattano nella precisione alla bocca del paziente, il paziente se ne disamora. Certo. Consideriamo che questi apparecchi devono essere utilizzati tecnicamente per tutta la vita e quindi è evidente che quello su misura è molto più adatto e molto più confortevole. Quello preformato potrebbe essere di transizione, magari per comprendere se l'efficacia dell'avanzamento della mandibola, dell'abbassamento della mandibola può determinare un giovamento, addirittura un miglioramento. Professor Levrini, proprio solo un accenno, perché poi vorrei proprio dedicare una puntata, ma prima di salutarla io tornerei a sedermi sulla poltrona sua per ragioni più estetiche che cliniche. Ha già indovinato, immagino, dove voglio arrivare. E infatti voglio parlare di sbiancamento. Sembra che soprattutto in questo momento dell'anno ci sia un boom di richieste. D'altra parte non c'è da stupirci, perché i dati dicono che una persona su due è insoddisfatta del colore dei propri denti. C'è chi va dal dentista, chi si attrezza con gel, strisce, dentifrici sbiancanti, tanto che i suoi colleghi dell'Accademia Italiana di Odontoiatria Conservativa e Restaurativa, che hanno appena si sono riuniti a un congresso concluso di recente a Bologna, raccomandano però di fare attenzione al pH di questi prodotti. Ci dà delle indicazioni, così capiamo bene? Allora, se andiamo dal dentista siamo abbastanza in buone mani, direi, perché il dentista dovrebbe sapere che prodotti utilizzare per i nostri denti. Ma se vogliamo farlo a casa, il rischio è che di utilizzare dei prodotti magari troppo aggressivi e quindi che in qualche modo possono intaccare lo smalto. Certo, perché di fatto tutti i prodotti sbiancanti, sia professionali che domiciliari, sono fatti di acido. Sì. L'applicazione dell'acido sul dente in qualche modo regolarizza lo smalto, rendendolo leggermente più bianco. Ora però partiamo dal principio: se si vuole ragionare da un punto di vista domestico, che la prima cosa da fare prima di applicare questi acidi è togliere completamente le macchie superficiali che ci sono sul dente. Una volta tolte le macchie superficiali o alimentari o di tartaro, si possono applicare questi acidi. Che quindi, acidi, mi scusi, ma le macchie le toglie l'igienista dentale, giusto? Il dentista o l'igienista dentale, certo. Esatto. Una volta fatto questo, si possono applicare questi acidi. Ovviamente l'acido sappiamo perfettamente che non è sicuramente un alleato della bocca, in particolar modo non è un alleato dello smalto. E quindi bisogna essere molto cauti, non aver timore, ma essere cauti. Certamente i tempi di applicazione di questi acidi sono talmente brevi che non danno danni, piuttosto generano questo beneficio che è molto perseguito, in particolare prima dell'estate. Si riempiono gli studi odontoiatrici di pazienti che vogliono un sorriso più bianco, anche se il concetto di bianco deve essere sempre legato, e questo lo si vede nel colloquio col paziente, al bianco naturale. Certo. I pazienti non vogliono il bianco ottico oggi, vogliono un bel bianco naturale, cioè quello che avevano quando magari erano più giovani. Non dimentichiamo, e questo è un altro concetto che bisogna portare relativamente al colore dei denti, che i denti nel tempo diventano più gialli purtroppo. Certo. E diventano più gialli purtroppo perché lo smalto si assottiglia, espandendo la parte più profonda che è marrone, che è la dentina. Ora, è vero togliere le macchie, è vero applicare questi prodotti sbiancanti che sono acidi per renderli più bianchi, ma soprattutto dobbiamo fare in modo che il nostro smalto sia più robusto e resistente per possibile. Tutta la vita, più possibile. Professor Levrini, qua ci vuole una bella puntatina e quindi l'aspettiamo per dei sorrisi proprio di quelli, non all'americana, ma insomma dei sorrisi belli, bianchi, che sono proprio espressione di anche un sorriso, di una bocca sana, perché questa, certo, una bocca bella deve essere prima di tutto una bocca sana. Grazie, certo, professore. Grazie, buona giornata. Da professore in professore salutiamo il nostro professore del mese, Deborah. Ah sì? È il professor Antonio Costanzo di Humanitas, che è lo specialista del mese della salute, viene parlando, parla che ti parla. Buongiorno professore. Buongiorno. Allora, abbiamo molte richieste per lei, ne facciamo sentire una per i nostri ascoltatori, perché così li stuzzichiamo a mettersi in contatto con noi, e poi la risposta del professor Costanzo. A tra poco. Parole, parole, parole. Ascoltami. Buongiorno a tutti. Vi scrivo perché l'unghia del mio alluce si sta incarnendo. Mi fa molto male e credo che mi farà sempre più male se non faccio qualcosa. Si sta incarnendo dalla parte rivolta verso l'altro piede e non verso le altre dita. Ho paura a tagliare l'unghia, non so bene cosa fare. Sto facendo dei pediluvi con acqua e sale, ma niente di più. Cosa posso fare? Grazie, Alessandra. E a proposito di parole, la salute viene parlando. Questa di Alessandra è una delle tante mail che abbiamo ricevuto a salute@radio24.it, proprio in merito al tema del mese, che è dedicato alla pelle, ma anche alle unghie e ai capelli. Professor Costanzo, noi registreremo naturalmente una sua risposta per Alessandra più estesa, ma in due considerazioni, due consigli per chi si ritrova ad un problema simile a quello di Alessandra, così poi noi vogliamo fare la borsa. Un minuto di tempo. Allora, prima di tutto capire il motivo, magari è una scarpa stretta oppure l'unghia tagliata troppo corta, per cui la lamina ungueale va ad infilarsi lateralmente all'unghia nella pelle e lì dà infiammazione. Sì. Quindi riconoscere la causa, trattare immediatamente, inizialmente con creme antinfiammatorie e poi anche con antibiotici, e nel caso dovesse ricorrere più volte durante l'anno esistono dei piccoli interventi chirurgici che tolgono una piccola parte dell'unghia e eliminano le cellule che producono un'unghia che cresce in maniera anomala. Quindi la soluzione si chiama? Laminectomia. Si taglia un pezzettino di unghia, è un intervento molto facile e anche non eccessivamente doloroso. Ecco, perché che sia facile per il medico siamo tranquilli, ma che sia dobbiamo sapere se non è troppo doloroso, perché quando parliamo di unghie... Allora, professor Costanzo, grazie per la sua disponibilità. Voi continuate a scrivere, a farci le vostre domande. Il professor Costanzo tornerà naturalmente anche per una puntata dedicata, ma per continuare a dare indicazioni e risposte ai vostri dubbi e per dare soprattutto una mano a chi ha un problema per pelle, unghie e capelli. Professor Costanzo, grazie. Noi andiamo a sentire i mercati. Sono... E poi mettiamo mano al portafoglio, se in qualche maniera dovete fare una chiacchierata con il vostro operatore telefonico perché a breve andrete all'estero e non sapete bene che tariffa pianificare, noi ne parleremo con i nostri esperti perché sono in arrivo delle importanti novità tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Investi con Anima, il gruppo leader del risparmio gestito italiano. Cuore e denari. Poi lo sai, non c'è un senso questo tempo che non dà il giusto peso a quello che viviamo. Ogni ricordo è più importante condividerlo. Sì, l'ho sentita tutta, intanto perché mi piace molto cantarla in macchina con mio nipote, urlando, andando al mare, ci divertiamo un sacco, e invece l'abbiamo presa questa mattina come così introduzione al nostro approfondimento di denari. Allora, quello che affrontiamo adesso è un tema che in questo periodo dell'anno è più o meno un tema ricorrente, perché intanto si butta l'occhio alle vacanze e fra i preventivi di spesa... Se si scegliesse di andare all'estero, si considera anche quanto in teoria si potrebbe spendere in telefonate, soprattutto direi in traffico dati, perché sono proprio finiti i tempi in cui telefonavamo e basta. Oggi siamo sempre connessi e la prima cosa che si fa andando in giro, appena si mette piede al primo aeroporto, si posta una foto sul social network. È proprio, come dire, la priorità assoluta. Allora, perché ce ne occupiamo oggi nello spazio di denari? Perché dal 15 giugno, segnate questa data, dal cellulare non si pagherà più il sovrapprezzo roaming in Europa. Da qualche anno i costi si stavano riducendo, lo sapete, abbiamo fatto sempre delle puntate in questo periodo, adesso siamo arrivati all'azzeramento finale. Tutto così semplice, mica tanto, perché per tutta una serie di ragioni non culliamoci nell'idea che non pagheremo proprio nulla. È venuto subito a farci un vademecum delle attenzioni che dovremmo avere, altro che uno spregiudicato uso del telefono in vista di questa novità. Un grande amico di Cuore Denari, ormai lo abbiamo adottato anche noi, Gianfranco Giardina, direttore di D-Day, il quotidiano online sull'high tech e non solo, eccoci. Grazie mille, bentrovati. Ti abbiamo rubato a 2024. Ma no, io sono di tutta Radio 24. Ah, in realtà abbiamo chiamato anche Enrico Pagliarini, ma stamattina sta facendo un'altra cosa nell'altro studio, magari ci raggiunge dopo sul finale. Allora, 800 24 00 24 è il numero verde a vostra disposizione. Se avete delle curiosità sull'argomento, diteci se la novità vi è chiara e in generale quali sono le strategie che attuate quando, andando all'estero, siete comunque più o meno obbligati a fare molte chiamate non solo alla mamma o alla moglie o al marito, appunto se siete distanti e ai parenti più stretti, o se comunque fate un massiccio uso di traffico dati. Vi siete già informati sul roaming azzerato? Cosa vi ha detto il vostro operatore? Allora Gianfranco, andiamo subito all'ABC. Cosa succede esattamente il 15 giugno? Come siamo arrivati a questo appuntamento? Allora, siamo arrivati con una lunga strada di riduzioni che non erano spontanee. Le riduzioni che abbiamo dei costi di roaming, quali abbiamo sentito questi anni, erano normali. limate dall'Unione Europea. E questo percorso di continua riduzione e limatura ci ha portato a questo benedetto 15 giugno, benedettissimo, del meraviglioso, del 2017, in cui i costi di roaming si azzerano. Quindi lo slogan proprio dell'operazione è Rome like at home, quindi chiama all'estero come se fosse a casa, ovviamente soltanto nei paesi della UE. Quindi non dappertutto, no? Però in questo caso, qui dobbiamo fare una piccola premessa, sì. Nel 99% dei casi, quindi se escludiamo dei casi specifici, che poi magari vediamo velocemente, ma quello che succede è che noi viaggeremo in Europa dimenticandoci del problema di essere all'estero, quindi chiamando e navigando alle stesse tariffe, alle stesse condizioni che abbiamo a casa, e questa è un'innovazione. Quindi non esiste più clamorosa. Un sovrapprezzo per il fatto di stare all'estero, ma non è che non si paga nulla, quindi anche questo concetto dell'azzerato, ecco, fissiamolo bene in testa perché magari qualcuno si confonde. È azzerato il sovrapprezzo, certo. Ovviamente, però mentre nel passato magari una tariffa con tanti gigabyte di navigazione, ecco, poteva costare anche molto poco in offerta, adesso tenderà magari a costare un pochino di più, perché evidentemente ci sono degli extra costi, perché tra i gestori telefonici di tutte le nazioni lo scambio monetario, una bilancia dei pagamenti continua a esserci, cioè certo. Quando io sono, non so, per esempio un abbonato Vodafone e vado all'estero, mi attesto su rete Vodafone all'estero, beh chiaramente sarà una partita tra Vodafone e Vodafone, ma se sono un abbonato TIM e vado su una rete che non è TIM, il mio consumo verrà fatturato a TIM, che pagherà. Ovviamente c'è tutta un'analisi molto interessante anche sui flussi migratori delle popolazioni all'interno dei turisti all'interno della UE, quindi la logica di proprio di una bilancia dei pagamenti vera e propria, certo. Noi siamo un paese che ospita molto, con molti turisti evidentemente, quindi la nostra bilancia dei pagamenti è positiva, i nostri gestori telefonici sono tutto contenti, sommati contenti, magari meno quelli dei paesi del nord dove c'è meno, certo. Turismo, e quindi loro saranno più pagatori che ricettori di questi. Allora, già qualche ascoltatore ci segnala, ed era effettivamente questo un punto che avevamo in programma di trattare, il fatto che già alcuni operatori si sono adeguati per tempo a questa novità e hanno già azzerato questo sovrapprezzo. Hanno attivato delle promozioni in cui hanno anticipato parte o tutti i vantaggi che ci saranno comunque dal 15 giugno. Ma il primo vantaggio, evidentemente, magari non ci si pensa, ma oggi all'estero, salvo promozioni, quando io ricevo una telefonata già pago, comincio a pagare. Ecco, ovviamente all'estero, in Unione Europea, dal 15 giugno ricevo liberamente, come faccio in Italia, senza pagare, certo. Alcunché le telefonate. E questa già è una prima cosa. Dopodiché evidentemente posso chiamare, quasi tutti oramai hanno dei contratti o degli abbonamenti o delle opzioni che prevedono delle soglie, o minuti di chiamate o sms addirittura illimitati, oppure limitati numericamente, 200 minuti, 500 minuti, 200 sms, ecco, all'interno di queste soglie io potrò chiamare all'estero, quando sono all'estero, chiamare liberamente. Qualcuno potrebbe pensare chiamare in Italia, perché la prima cosa che viene in mente è assolutamente quella, e quello sicuramente è un diritto, diciamo, garantito e all'interno delle proprie soglie o delle proprie tariffe. In realtà c'è anche di più, perché è come per magia, no? Nell'istante in cui noi siamo in Italia, siamo prettamente italiani. Quindi se chiamiamo in Francia, stiamo facendo una chiamata internazionale. Secondo il nostro piano, la pagheremo come una chiamata internazionale. Nell'istante in cui mettiamo il piede fuori dall'Italia, diventiamo cittadini europei. E quindi in questo modo, praticamente, qualsiasi chiamata noi facciamo viene considerata nazionale, purché sia verso numeri dell'Unione Europea. Ecco, quindi, come mai il legislatore non ha pensato a disciplinare anche questo aspetto? Tu dirai, e che ne so io, però insomma secondo te è un aspetto che è sfuggito, perché è un'incongruenza. Beh, il paradosso bizzarra. È che quasi all'estero io ho dei risparmi, se devo chiamare dalla Francia alla Germania, lo faccio a tariffa nazionale, se chiamo dall'Italia alla Germania lo faccio a tariffa, certo. Internazionale. È una piccola anomalia, ma è un piccolo aiuto, perché è una fattispecie classica, è quella che sono all'estero, in Francia, non so, per esempio devo chiamare il ristorante per prenotare, chiamare un taxi, cioè fare delle chiamate che sono locali a quel punto. Allora sarebbe stato veramente una mezza vittoria per il consumatore avere delle chiamate gratuite, ma solo verso l'Italia, cioè non gratuite, scusate, chiamate tariffate a tariffa nazionale solo se chiamo verso l'Italia. Quando sono in Francia, probabilmente una parte delle mie chiamate dovrà farle verso la Francia. Poi, visto che a questo punto sarebbe stato difficile differenziare ulteriormente, si è detto facciamo di tutta l'Unione un calderone, qualsiasi chiamata verso l'Unione Europea è una chiamata tariffata in maniera nazionale o all'interno delle proprie soglie, e che questo che accada il 15 giugno, ricordiamoci che sempre prima della pausa estive i carburanti aumentano, le autostrade aumentano, no, ci sono sempre queste... tutte invece... puntatone di Cuore Denari, guarda, ci offrono sempre un sacco di spunti, insomma. Invece questa volta questa cosa viene il 15 giugno, non il 15 settembre, il che è una, chiaramente una notizia fantastica. Benissimo. Perché lì incominciamo a spostarci un po', allora però insomma attenzione anche a dove ci spostiamo, perché qualcuno in realtà sì. Esatto, soprattutto magari spostandoci, che ne so, dall'Italia alla Francia, attraversiamo Monte Carlo e lì la sorpresona può arrivare, così come può arrivare anche attraversando altre zone che noi riteniamo europee ma non lo sono. E infatti un ascoltatore chiede, Gianfranco, e già qua eravamo pronti anche con la sollecitazione, San Marino è compreso nel roaming come se fosse UE? Al momento l'operatore telefonico di cui parla l'ascoltatore appunto è in roaming come paese estero. Ci aggiungo anche la domanda invece che arriva da Fabio dalla provincia di Pavia, perché più o meno pone lo stesso argomento. Fabio, benvenuto. Eccomi qua, buongiorno. Buongiorno. E, insomma, io ho tutti questi amici in Svizzera sul Lago Maggiore, vado a Locarno, c'è questo festival del cinema bellissimo, certo. Ve lo consiglio, e là arriva, cosa, arriva gente e fa la telefonata, esatto. Che gli rovina sempre tutte queste, esatto, gite, esatto. E poi ti arrivano delle bollette che dici ma no. E adesso con la Vodafone ho attivato questi 3 euro per poter utilizzare i miei piani, insomma appena arriva una telefonata, appena ti arriva un WhatsApp, comunque scattano 3 euro di estero. E quindi mi chiedevo, non so, la Svizzera farà qualcosa per mettersi un po'. E chi lo sa, se lo sapessimo. Magari il vostro relatore, magari lo sa. Gianfranco, hai delle informazioni? Sì, veloce. Di rumor, diciamo così. Sì. Allora, di certo la Svizzera è fuori dall'Unione Europea e quindi è fuori da questa normativa, però lo sarebbero fuori anche altri paesi tipo Norvegia, Islanda, Liechtenstein, che invece aderiscono non proprio dal 15 giugno, ci vorrà qualche settimana, perché fanno parte dello spazio economico europeo, di cui in realtà all'interno di alcuni patti fa parte anche la Svizzera, che al momento però si è tenuta indietro. Perché non si è tenuta indietro? Per quello che roaming. Dicevamo prima, la Svizzera ha più turisti in uscita che turisti in ingresso, e quindi in questo momento non gli conviene, sta non ha un nessuna... po' a guardare. Si dice che non possa, come dire, resistere più di tanto, perché la Svizzera è totalmente immersa in un'area UE, e questa cosa chiaramente creerebbe magari qualche problema, anche qualcuno che pensa magari di cambiare strade, certo, allungare. Quindi siamo alla finestra per la Svizzera, per San Marino? Sì, San Marino assolutamente no, non è compreso in questo procedimento, come anche Monte Carlo e come anche tutto quello che non è UE. Attenzione, per utilizzare il roaming zero, come viene chiamato, noi dobbiamo attivare sullo smartphone il roaming estero, il roaming dati anche. E quando attiviamo questa funzione, il telefono aggancia qualsiasi rete sia forte. Quindi se ci dimentichiamo il roaming attivato e passiamo dalla Svizzera, o anche non so, una bella navigazione sul Lago Maggiore può bastare. Esatto. Tanto io non telefono, non mi succede niente, altro che... No, succede, perché chiaramente col traffico dati basta semplicemente, veramente, come diceva il nostro ascoltatore, arriva un messaggio WhatsApp o semplicemente gli smartphone periodicamente scambiano piccoli pacchetti di dati, a quel punto sto andando in un roaming internazionale non gestito. E quindi la sanguisuga lì subito si palesa. Bisogna stare molto attenti ad attivare il roaming, certo, solo quando si è all'estero e solo quando si è, come dire, in zone sufficientemente sicure. Un passaggio sull'Adriatica può... essere, può lambire San Marino e, esatto, e riservare qualche sorpresa. C'è il traffico, torniamo tra un attimo. Faircam Transport, puntuale ed efficiente nel rispetto dell'ambiente. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta Cuore e Denari. Ti telefono no, ti telefono no. Allora, adesso magari all'estero qualche telefonata in più, un po' più a cuor leggero la faremo, visto che le tariffe di roaming dal 15 giugno vengono praticamente azzerate. Detto questo, però, le precauzioni da adottare, lo stesso andando all'estero, sono molte, perché l'uso comunque spregiudicato del nostro abbonamento telefonico, Gianfranco Giardina, direttore di D-Day, è sempre, come dire, un'opzione non completamente suggeribile. Allora, vademecum su che cosa sta cambiando, lo abbiamo fatto. Quali sono le attenzioni da fare però prossimamente? Allora, quella di stare attenti a quando si attiva il roaming in paesi che non siano UE, ovviamente l'abbiamo già detta, la cosa più importante. E c'è un altro tema che è quello delle opzioni. Anche il nostro ascoltatore prima diceva: ho attivato un'opzione per l'estero. Al momento, poi noi stiamo parlando prima del 15 giugno, poi magari il 16 giugno facciamo un aggiornamento, ma al momento le opzioni per l'estero rimangono ancora presenti e attive nel portafoglio dei gestori. E questo perché, per esempio, comprendono anche i paesi non UE, comprendono gli Stati Uniti. Sì. Ecco, non è chiaro al momento, ma anzi è abbastanza chiaro. Se io lascio attiva l'opzione, per esempio quella dei 3 euro di cui parlavamo prima, anche se c'è il roaming zero, ma l'opzione è attiva, ecco che mi scattano i 3 euro comunque, perché l'opzione è attiva. Quindi bisogna sincerarsi di disattivare le opzioni se si viaggia in Europa e non si è interessati, perché prima potevano avere un senso con i costi di roaming. Dal 15 giugno, se viaggio nella UE, no, quell'opzione non ha più senso, ma non si disattiverà automaticamente. Bisognerà farlo a mano. E quindi questo è un primo aspetto. Poi va fatto un chiarimento. Noi abbiamo detto, la premessa, parliamo del 99% dei casi, cioè quelli che vivono, lavorano prevalentemente in Italia, hanno una SIM italiana e si trovano a viaggiare all'estero, Francia, occasionalmente, Germania, vabbè, per turismo, anche 20 giorni, però non frontalieri, non persone che lavorano per esempio in pianta stabile all'estero. Perché? Perché la normativa non è in realtà nelle sue pieghe così semplice, prevede anche che ci sia il cosiddetto uso corretto, il fair use. Perché? Perché se no, altrimenti, se ci fosse questa libera circolazione totale, io potrei andare a trovare una tariffa particolarmente conveniente, non so, in Romania, dico un paese a caso, senza conoscere le tariffe rumene peraltro, e prendo questa SIM, la compro la lì e poi tutta la uso in pianta stabile in Italia, per esempio. Ecco, questo creerebbe una distorsione del mercato evidente. Quindi il legislatore europeo ha stabilito che ci sia queste condizioni, devono essere verificate queste condizioni di uso corretto, che sono che fondamentalmente i giorni in cui sto all'estero devono essere inferiore ai giorni in cui sto in Italia, questo in una finestra osservabile di 4 mesi. Lo devi dire prima l'operatore di telecomunicazione o si fa a consuntivo? Consuntivo, in realtà, se nel periodo di 4 mesi io sto più giorni all'estero che in Italia, ma in 4 mesi, certo. Attenzione, il gestore potrebbe avvisarmi o chiedermi chiaramente di modificare le tariffe, però è tutto, diciamo, soggetto a un avviso di che cosa, certo, sta succedendo, cioè il consumatore dovrebbe essere informato. Stiamo parlando della normativa, non dell'applicazione della normativa. Questa, quindi, poi la vedremo. L'operatore di telecomunicazione può anche dire che non adotta questa opzione? Può anche non adottarla, però comunque queste sono le condizioni, certo, che l'Unione Europea mette a disposizione del gestore per proteggersi da usi impropri. E allo stesso modo per i dati, per esempio, che i dati sono un punto importante, ecco, il proprio piano dati non può essere usato prevalentemente all'estero, ma essere usato prevalentemente in Italia. Questo significa che se io ho 10 giga di traffico al mese, io posso usarne all'estero 5. Perché se ne usassi 6, starei facendo un uso prevalente all'estero. Ovviamente non in quel mese, ma sempre una finestra osservazione di 4 mesi, che diluisce molto il problema, perché anche se quel mese che sono in vacanza faccio tutti i miei 10 giga, esatto, ma però poi dopo negli altri 3 mesi ritorni e nessuno ti dice niente. Non c'è nessun problema. 3 minuti di tempo per qualche telefonata, Gianfranco, vediamo un po' quale questione sollevano i nostri ascoltatori. Allora, mi interessava sentire Ruggero dalla provincia di Padova, perché ci consente così una prova sul campo, sulla quale poi magari saranno stuzzicati anche gli amici di D-Day ad andare ad approfondire. Ruggero, benvenuto, veloce, grazie. Sì, buongiorno, velocissimo. Allora, ho sentito dal vostro ospite, è vero, confermo, le tariffe di roaming, cioè il roaming è già venuto meno per alcuni gestori che già dal mese scorso non applicano più nessun extra costo. Va detto però che questi stessi gestori hanno già introdotto pesanti variazioni unilaterali, nei quali appunto, come prevede la legge, danno disponibilità al cliente di poter lasciare senza penali e quant'altro. Il vostro ospite diceva ci dovremmo aspettare, ecco, in ecco, certi casi il condizionale direi che ormai lo dobbiamo accantonare. Grazie Ruggero, sentirei anche Raffaello da Modena, poi facciamo, come dice Nicoletta, la batteria di domande e la batteria di risposte. Raffaello? Buongiorno. Io vi faccio questa domanda. Io ho mia moglie e mia suocera che sono francesi, quindi periodicamente andiamo in Francia. La settimana scorsa, andati in un negozio Vodafone, ci siamo sentiti dire: guardate, dovete attivare questo pacchetto perché è vero che dal 15 cambiano le regole, ma il Vodafone non ci ha comunicato nulla, quindi o applicate questo pacchetto oppure non garantiamo che poi non ci siano degli extra costi. Che mi è sembrato un po' strano. L'hanno proprio usato questa formula, ci anticipava il centralino, a vostro rischio e pericolo se non adottate questo nuovo piano tariffario. Grazie Raffaello. Allora, cosa ci dicono queste due telefonate, Gianfranco? Poi fra un minuto chiudiamo. Ci dicono che rischio e pericolo non si deve porre nella maniera più assoluta, è un negoziante scorretto. Lo dico proprio in maniera molto chiara, dal 15 di giugno non ci sono più questi costi sulla Francia. Ed è certo. Per quanto riguarda il discorso del rialzo delle tariffe, detto, ci potrebbe essere, probabilmente ci sarà, ma c'è anche un'altra possibilità. E io immagino, non c'è ancora niente sul campo, ma immagino che compariranno delle tariffe con il traffico dati, ma non abilitate per il roaming. Cioè non è obbligatorio che una SIM funzioni anche all'estero. Ah, certo. Uno potrebbe fare un abbonamento a un prezzo particolarmente conveniente, ma che funziona soltanto in Italia. Cioè non abilitato, esatto, per il roaming. Il roaming è zero se la mia SIM è abilitata, ma se la mia SIM non è abilitata, il roaming non posso proprio fare. Non è che lo pago sopra prezzo, non lo pago, ma non lo faccio. Quindi in questo caso ci saranno tariffe molto convenienti per chi non viaggia, per persone che appunto non hanno intenzione oppure trovano altre soluzioni quando sono all'estero, e poi delle tariffe invece un pochino più care che prevedono questa possibilità. Certo. Io credo che sia comunque un grandissimo passo avanti, perché se noi contiamo... Sei un europeista convinto in questo campo. Assolutamente sì, anche perché se contiamo quello che abbiamo speso normalmente nel tutte le vacanze, un euro, qualche euro in più nella bolletta telefonica forse conviene. Grazie Gianfranco per essere stato con noi, ti rilasciamo i tuoi impegni con D-Day, poi dal 15 giugno in avanti se monitorerai quello che succederà vieni in cielo a raccontare. Noi torniamo invece domani.